Terzo anello ad alta voce. Anna Karenina di Lev Tolstoi. Più di una volta in quegli ultimi giorni, e anche appena orora, Anna si era detta che Vronsky per lei era uno delle centinaia di giovanotti eternamente identici che si incontrano dappertutto, che non si sarebbe mai permessa anche soltanto di pensare a lui. Ma ora, nel primo istante dell'incontro, la prese un sentimento di gioioso orgoglio. Non aveva bisogno di domandare perché egli fosse lì. Lo sapeva con la stessa sicurezza che se egli le avesse detto che era lì per essere dove era lei. «Non sapevo che foste in viaggio. Perché siete in viaggio?» disse, lasciando cadere la mano che stava per aggrapparsi alla colonnina, e sul suo viso splendevano l'animazione e una gioia incontenibile. «Perché sono in viaggio?» ripeté egli, guardandola proprio negli occhi. «Voi lo sapete. Io sono in viaggio per essere dove siete voi», disse. «Non posso fare altrimenti». E in quel momento, come se avesse sormontato un ostacolo, il vento sparpagliò la neve dai tetti dei vagoni, sconquassò una lastra di ferro divelta e in testa al treno mugghiò lamentoso e cupo il fischio pesante della locomotiva. Tutto l'orrore della tormenta le parve adesso ancora più magnifico. Egli aveva detto la stessa cosa che l'anima di lei desiderava e di cui però essa aveva paura con la ragione. Non rispose nulla e sul suo viso egli vide una lotta. «Perdonatemi se vi spiace quel che vi ho detto», cominciò egli in modo sottomesso. Aveva parlato in modo cortese, rispettoso, ma così fermo e ostinato che per molto tempo lei non poté rispondere nulla. «È male quello che dite. E io vi prego, se siete un galantuomo, dimenticate ciò che avete detto come lo dimenticherò io», disse infine. «Io non dimenticherò mai nemmeno una vostra parola, nemmeno un vostro gesto, e non posso. Basta, basta!» gridò essa, sforzandosi invano di conferire un'espressione severa al proprio viso che egli scrutava avidamente. E aggrappatasi con una mano alla fredda colonnina, salì la scaletta ed entrò svelta nell'ingresso della carrozza. Non dormì tutta la notte, ma nella tensione e nelle fantasticherie che riempivano la sua immaginazione c'era qualcosa di gioioso, di bruciante e di eccitante. Verso la mattina Anna si assopì, sempre seduta nella poltrona, e quando si svegliò tutto era già bianco, chiaro, e il treno si avvicinava a Pietroburgo. Subito i pensieri della casa, del marito, del figlio e le preoccupazioni della giornata che l'aspettava la sediarono. A Pietroburgo, non appena il treno si fermò e lei ne discese, la prima faccia che richiamò la sua attenzione fu la faccia del marito. «Oh, Dio mio, perché gli sono venute quelle orecchie?» pensò, guardando la sua figura fredda e rappresentativa, e specialmente le cartilagini delle orecchie che ora l'avevano colpita e che sostenevano le falde del cappello rotondo. Scorgendola, egli le venne incontro, atteggiando le labbra al sorriso ironico che gli era consueto e guardando verso di lei con i grandi occhi stanchi. Una certa sensazione sgradevole le strinse il cuore quando incontrò lo sguardo tenace e stanco di lui, come se si aspettasse di vederlo diverso. In particolare la colpì la sensazione di scontentezza di sé che provava nell'incontrarsi con lui. Era una sensazione di vecchia data, ormai nota, simile allo stato di finzione che provava nei rapporti con il marito. Ma prima non se n'era mai accorta, mentre ora ne fu consapevole in modo chiaro e doloroso. «Sì, come vedi, un marito affettuoso, affettuoso come al secondo anno di matrimonio, bruciava dal desiderio di vederti», disse egli con la sua voce lenta e sottile e con il tono che adoperava quasi sempre con lei, un tono di irrisione verso chi avesse parlato così per davvero. «Seriosa sta bene?» domandò lei. «E questa è tutta la ricompensa per il mio ardore. Sta bene, sta bene». Invece no, son proprio tua, tua, fra le braccia tue, solamente tua. finalmente mia. Così per sempre tua. Poi tanto facile legarti a me, amore tuo. Fra le braccia tue, per sognare in due, per morir così. Durante tutta quella notte Vronsky non tentò nemmeno di addormentarsi. Si sentiva un re, non perché credesse di aver prodotto impressione su Anna, ancora non credeva a questo, ma perché l'impressione che lei aveva prodotto su di lui gli dava felicità e orgoglio. Che cosa sarebbe venuto fuori da tutto questo non lo sapeva e nemmeno ci pensava. Sentiva che tutte le sue energie, sinora rilassate e disperse, si erano fuse in una cosa sola e con una forza terribile erano dirette verso un unico beato fine. Ed era felice di questo. Sapeva soltanto che le aveva detto la verità, che andava dove era lei, che tutta la felicità della vita, l'unico senso della vita, adesso li trovava nel vedere lei e nell'ascoltare lei. E quando era disceso dal vagone a Bologovo per bere dell'acqua di Selze e aveva visto Anna, involontariamente le aveva detto proprio ciò che pensava. Ed egli fu felice di aver detto questo, che adesso lei lo sapesse e ci pensasse. Non dormì tutta la notte. Quando uscì dalla carrozza a Pietroburgo, dopo la notte insonne, si sentiva vivace e fresco come dopo un bagno freddo. Sapeva che lei aveva un marito, ma non credeva nella sua esistenza, e vi credette completamente soltanto allorché lo vide, con la sua testa, con le sue spalle e le gambe nei pantaloni neri. In particolare allorché vide come il marito le prendesse tranquillamente la mano con un senso di proprietà. Vide il primo incontro del marito con la moglie e notò, con la penetrazione dell'innamorato, i segni del leggero imbarazzo con cui essa parlava al marito. «No, lei non lo ama e non può amarlo», decise fra sé. Già mentre si avvicinava ad Anna Arkadievna da dietro, notò con gioia che lei aveva sentito il suo avvicinarsi e stava per voltarsi, e riconosciutolo si era nuovamente rivolta al marito. «Avete passato bene la notte?» disse inchinandosi a lei e al marito insieme e lasciando ad Alexei Alexandrovich la facoltà di prendere per sé quell'inchino e di riconoscerlo o non riconoscerlo secondo come gli fosse piaciuto. «Vi ringrazio benissimo», rispose lei. Il suo viso sembrava stanco e non c'era in esso quel gioco dell'animazione che si manifestava ora nel sorriso, ora negli occhi. Ma per un istante, in uno sguardo verso di lui, qualcosa balenò nei suoi occhi e benché quella luce si spegnesse subito, egli fu felice di tale istante. Essa diede un'occhiata al marito per vedere se conoscesse Vronsky. Alexei Alexandrovich guardava Vronsky con disappunto, cercando distrattamente di ricordare chi fosse. La calma e la sicurezza di sé di Vronsky qui si imbatterono come la falce sulla pietra nella fredda sicurezza di sé di Alexei Alexandrovich. «Il conte Vronsky», disse Anna. «Ah, noi ci conosciamo, mi pare», disse con indifferenza Alexei Alexandrovich tendendo la mano. «All'andata hai viaggiato con la madre e al ritorno con il figlio», disse pronunciando distintamente come se regalasse un rublo ad ogni parola. «Probabilmente venite da una licenza, no?» disse ancora e senza aspettare risposta si rivolse alla moglie nel suo tono scherzoso. «Allora si sono versate molte lacrime a Mosca per la separazione?» Parlando così alla moglie, faceva sentire a Vronsky che desiderava restar solo e, rivoltosi a lui, si toccò il cappello. Ma Vronsky si rivolse ad Anna Arkadievna. «Spero di avere l'onore di venire da voi», disse. Alexei Alexandrovich guardò Vronsky con gli occhi stanchi. «Molto lieto, riceviamo il lunedì», disse freddamente. Alla fine dell'inverno in casa Scerbacchi si tenne un consulto per esaminare in quale condizioni si trovasse la salute di Kitty e decidere cosa si dovesse fare per ristabilire le sue forze che si andavano indebolendo. Essa era malata e con l'avvicinarsi della primavera la sua salute era divenuta peggiore. E di fronte alla principessa, come di fronte a una donna eccezionalmente intelligente, il dottore definì scientificamente lo stato della principessina e concluse con le indicazioni sul modo di bere quelle acque delle quali non c'era alcun bisogno. Alla domanda se dovessero andare all'estero, il dottore si sprofondò in meditazioni come per risolvere un arduo problema. La decisione infine venne esposta: andarci e non dar retta ai ciarlatani, ma rivolgersi in tutto a lui. Dopo il dottore venne Dolly. Essa sapeva che quel giorno doveva tenersi il consulto e, benché avesse lasciato di recente il letto dopo il parto, aveva partorito una bambina alla fine dell'inverno, benché avesse molte pene e affanni suoi, lasciato il neonato lattante e una sua bambina ammalata, era venuta per sapere della sorte di Kitty che si decideva quel giorno. «E allora?» disse entrando nel salotto e non togliendosi il cappello. «Siete tutti contenti, dunque va bene». Provarono a raccontarle che cosa aveva detto il dottore, ma risultò che sebbene il dottore avesse parlato molto bene e a lungo, non era assolutamente possibile riferire che cosa avesse detto. L'unica cosa interessante era che si fosse deciso di andare all'estero. Dolly involontariamente sospirò. La sua migliore amica, la sorella, partiva. E la sua vita non era allegra. I rapporti con Stepan Arkadic dopo la conciliazione erano divenuti umilianti. La saldatura fatta da Anna si era dimostrata precaria e l'accordo familiare si era spezzato di nuovo nello stesso punto. Appena il dottore se ne fu andato, anche il vecchio principe uscì dal suo studio e dopo aver offerta la sua guancia a Dolly e aver parlato con lei, si rivolse alla moglie. «Come si è deciso? Partite? Bene. E di me che intendete fare?» «Penso che tu debba rimanere, Alexander», disse la moglie. «Come volete. E tu, Katia, senti che devi fare», soggiunse rivolto alla figlia minore. «Una volta o l'altra, un bel giorno, svegliati e di' a te stessa. Ma io sono sanissima e contenta e andiamo di nuovo a spasso nel gelo con il papà di mattina presto, eh?» Ciò che aveva detto il padre pareva molto semplice, ma a queste parole Kitty si confuse e si smarrì come un delinquente colto in fallo. «Sì, lui sa tutto, capisce tutto, e con queste parole mi dice che per quanto sia una vergogna bisogna vivere e vincere la propria vergogna». Non poté farsi animo per rispondere qualcosa. Stava per cominciare, ma a un tratto scoppiò in pianto e corse via dalla stanza. «Ecco i tuoi scherzi!» si avventò sul marito la principessa. «Tu sei sempre...» e cominciò a rimproverarlo. Il principe ascoltò abbastanza a lungo i rimproveri della principessa e rimase zitto, ma il suo viso si faceva sempre più scuro. «Oh, fa così pena, poverina, fa così pena, e tu non senti che le fa male ogni accenno a ciò che ne è stato la causa? Oh, sbagliarsi così sul conto della gente!» disse la principessa, e dal cambiamento del suo tono Dolly e il principe capirono che parlava di Vronsky. «Non capisco perché non ci siano leggi contro esseri così disgustosi e ignobili». «Ah, almeno non avessi ascoltato», proferì tetramente il principe alzandosi dalla poltrona e come desiderando uscire, ma si fermò sulla soglia. «Le leggi ci sono, mammina, e già che mi ci hai portato, te lo dirò io chi è colpa di tutto, tu e tu sola. Leggi contro, si fatti bellimbusti, ci sono sempre state e ci sono». Dolly aveva visto subito che c'era un'opera femminile da compiere e si era preparata a compierla. Si tolse il cappello e, rimboccandosi moralmente le maniche, si preparò ad agire. Durante l'offensiva della madre contro il padre, si era sforzata di trattenere la madre per quanto lo permetteva il rispetto filiale. Durante lo scoppio del padre, aveva taciuto. Provava vergogna per la madre e affetto verso il padre, per la sua bontà. Ma quando il padre se ne andò, si accinse a fare la cosa più importante, quella che ci voleva, andare da Kitty e tranquillizzarla. «Ve lo volevo dire da tempo, mamma. Sapete che Levin voleva fare una proposta di matrimonio a Kitty quando è stato qui l'ultima volta? L'aveva detto a Stiva». «E con questo non capisco. Sicché forse Kitty lo ha respinto. Non ve ne ha parlato?» «Oh no, non ha detto nulla né dell'uno né dell'altro, è troppo orgogliosa. Ma io so che tutto viene da quello. Sì, immaginatevi se ha respinto Levin. Lei non l'avrebbe respinto se non ci fosse stato l'altro, io lo so. E poi quello l'ha ingannata in modo così orribile». Alla principessa faceva troppa paura pensare quanto fosse colpevole di fronte alla figlia e si adirò. «Ah, ormai non ci capisco più niente. Oggi tutti vogliono vivere troppo di testa loro, non dicono niente alla mamma e poi ecco...» «Mamma, io vado da lei». «Vai, vai, te lo proibisco forse», disse la madre. Thank you. L'alta società di Pietroburgo è in realtà una sola. Tutti si conoscono e persino si frequentano, ma questa vasta cerchia ha le sue particolari suddivisioni. Anna Arkadievna aveva amici e stretti legami in tre ambienti diversi. Uno era l'ambiente burocratico, ufficiale di suo marito, costituito dai suoi colleghi e dipendenti, legati e divisi fra loro nel modo più vario e capriccioso secondo le condizioni sociali. Anna adesso poteva ricordare a fatica il senso di rispetto quasi religioso che aveva avuto nei primi tempi per queste persone. Adesso le conosceva tutte, come ci si conosce a vicenda in un capoluogo distrettuale. Sapeva che abitudini e che debolezze avesse ognuno, quale scarpa stringesse il piede di un altro. Conosceva i rapporti che intrattenevano fra loro e con il centro principale. Sapeva da che parte stesse ognuno e in che cosa e con chi ognuno consentisse o dissentisse. Ma quell'ambiente di interessi governativi, maschili, non l'aveva mai potuta interessare, nonostante i suggerimenti della contessa Lidia Ivanovna, e lo evitava. Un altro ambiente, più vicino ad Anna, era quello attraverso il quale Alexei Alexandrovich aveva fatto la sua carriera. Centro di quest'ambiente era la contessa Lidia Ivanovna. Era un ambiente di vecchie, brutte donne, virtuose e pie, e di uomini intelligenti, sapienti e ambiziosi. Uno degli uomini intelligenti che vi appartenevano definiva questo ambiente la coscienza della società pietroburghese. Alexei Alexandrovich teneva assai a questa gente e Anna, che sapeva così bene familiarizzare con tutti, nei primi tempi della sua vita a Pietroburgo qui s'era trovata degli amici. Ora invece, al suo ritorno da Mosca, esso le era divenuto insopportabile. Le pareva che sia lei sia tutti loro fingessero e cominciò a sentire tanta noia e imbarazzo in questa compagnia che si recava il meno possibile dalla contessa Lidia Ivanovna. Il terzo ambiente, infine, dove lei aveva relazioni, era propriamente il gran mondo. Il mondo dei balli, dei pranzi, delle toilette brillanti. Il mondo che si appoggiava con una mano alla corte per non abbassarsi sino al demi-monde, che i membri di quest'ambiente credevano di disprezzare, ma con il quale avevano in comune gusti non solo simili, ma identici. Il suo legame con quest'ambiente era tenuto attraverso la principessa Betsy Verskaya, moglie d'un suo cugino, la quale aveva 120.000 rubli di rendita e sin dalla prima apparizione di Anna in società aveva preso a volerle particolarmente bene, le stava dietro e l'attirava nel suo ambiente, ridendo del circolo della contessa Lidia Ivanovna. «Quando sarò vecchia e brutta, diventerò anch'io così», diceva Betsy, «ma per voi, per una donna giovane e carina, è ancora presto per andare in quell'ospizio». Nei primi tempi Anna aveva evitato per quanto poteva questo mondo della principessa Verskaya, già che esso esigeva spese al di sopra dei suoi mezzi e poi dentro di sé preferiva il primo. Ma dopo il viaggio a Mosca avvenne il contrario. Sfuggiva ai suoi amici morali e frequentava il gran mondo. Qui incontrava Vronsky e in questi incontri provava una gioia emozionante. Molto spesso ella incontrava Vronsky da Betsy, che era nata Vronskaya e gli era cugina. Vronsky era dovunque potesse incontrare Anna e ogni volta che poteva le parlava del suo amore. Essa non gli dava alcun pretesto, ma ogni volta che lo incontrava, nella sua anima si accendeva quello stesso sentimento di animazione che l'aveva presa quel giorno in treno quando l'aveva visto per la prima volta. Sentiva lei stessa che al vederlo la gioia splendeva nei suoi occhi e piegava le sue labbra in un sorriso e non poteva spegnere l'espressione di questa gioia. Nei primi tempi Anna sinceramente credeva di essere scontenta di lui perché egli si permetteva di perseguitarla, ma poco dopo il suo ritorno da Mosca, venuta a una serata dove pensava di incontrarlo, mentre egli non c'era, dalla tristezza che si impadronì di lei capì chiaramente che stava ingannando se stessa, che quella persecuzione non solo non le dispiaceva, ma formava tutto l'interesse della sua vita. Thank you.